Steve a mis au point différents réservoirs. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Bentornati, rieccoci alla nostra finestra settimanale sulla cultura internazionale. Oggi parleremo di tolleranza e ambiente, due temi molto attuali e molto sentiti nelle nostre metropoli sovraffollate, congestionate, multiculturali, dove sempre più spesso la vicinanza tra popoli e culture diverse fanno esplodere tensioni, conflitti, manifestazioni di violenza e di intolleranza. E dove, soprattutto in questi tempi di crisi economica, il degrado delle periferie, l'inquinamento, la mancanza di spazi verdi acquisiscono il disagio sociale, l'emarginazione e la povertà. Di questo ed altro parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma prima di tutto ascoltiamo il sommario di oggi. Francia. La tolleranza torna in auge. Razzismo e xenofobia sarebbero diminuiti nel paese di Sarkozy. Tokyo. La storia in una scatola. Le scritte degli Ekiben, contenitori di cibo per viaggiatori, raccontano un secolo di Giappone. Russia. Guarire con l'iPhone. Una giovane russa, vittima di un incidente stradale, documenta il suo calvario con il telefonino. Inghilterra. Lezioni di giardinaggio per i bambini inglesi. Curare fiori e piante per reagire alla crisi. Austria. Ebraismo e alpinismo. Un binomio che dura da secoli in mostra a Hohenems. Inghilterra. Più leggero di una piuma, più resistente dell'acciaio. È il filo dei ragni del XXI secolo. Digging for Victory, zappando per la vittoria, è il titolo di un articolo dell'Independent che non si riferisce a delle operazioni di guerra, bensì ad una iniziativa che è partita dal giornale inglese e dalla Royal Horticultural Society, l'associazione in inglese per la promozione del giardinaggio, che cerca di diffondere appunto la pratica della coltivazione di fiori e piante nelle scuole britanniche. Parla di questa iniziativa, l'articolo dell'Independent, parte dall'esperienza di una ragazzina, Demi Darling, che vive in una zona degradata della città di Goole, nello Yorkshire, e dice che è in una zona appunto periferica della città, dove anche le aspettative di vita sono al di sotto della media nazionale, dove ci sono forti tassi di obesità e di malattie cardiache, e dove è diffusa la disoccupazione e la frustrazione sociale. Nel suo circondario avere un giardino è un lusso, e però grazie all'iniziativa della sua scuola elementare anche Demi è riuscita, insomma, a piantare delle piante insieme ai suoi compagni di scuola, e anche frutta e ortaggi che di cui si possono cibare. Questa iniziativa, che si chiama Let Children Grow, lasciamo crescere, facciamo crescere i bambini, è un'iniziativa molto importante in questo momento in Gran Bretagna, che sta dando grande impulso a queste attività in tutto il paese. Tra i vantaggi che vengono così indicati nell'articolo dell'Independent c'è il fatto che i bambini in questo modo apprendono da dove viene il cibo che è sulla loro tavola, ma non solo. Coltivando la terra aumentano anche il loro rendimento scolastico e migliorano il loro comportamento. Potenzialmente questa iniziativa potrebbe interessare 5 milioni di studenti dai 4 agli 11 anni, e per questa iniziativa sono stanziati 500 sterline per ogni scuola, proprio per sviluppare dei giardini, anche se non tutte le scuole inglesi ovviamente hanno lo spazio per creare un o per coltivare un giardino, però anche soltanto dei fiori sul davanzale o delle piccole delle iniziative anche molto circoscritte vengono in questo modo promosse. E tra l'altro uno dei promotori dell'iniziativa, Chris Collins, dice che il giardino è una straordinaria classe all'aperto, cioè coltivando delle aiuole si sviluppano anche delle conoscenze scientifiche o matematiche, per esempio nella misurazione, nonché conoscenze botaniche, ma anche il talento artistico e creativo degli alunni. Ecco, ma intanto ci ha raggiunto al telefono Pia Pera, che salutiamo, le diamo il benvenuto alla Finestra sul Cortile. Benvenuta. Pia Pera, scrittrice, esperta di giardinaggio e di ambiente, una collaboratrice del Domenicale del Sole 24 Ore. E dunque, Pia, sulla scia di Michelle Obama, che ha dato il buon esempio, no? Piantando un orto nel giardino della Casa Bianca, a quanto pare, insomma, anche in Europa, a cominciare dall'Inghilterra, si sta diffondendo la pratica della orticoltura e del giardinaggio. Ma in Italia cosa si sta facendo in questo campo? Esiste una società come la Royal Horticultural Society inglese? Ah, come saremmo fortunati ad averla, no? Abbiamo tante piccole associazioni, tanti comuni, scuole, abbiamo iniziative diciamo diffuse e molto meritorie, però prive di diciamo quella del pragmatismo, quella capacità organizzativa a livello nazionale, no? Che sarebbe bellissimo avere in Italia. Però raccontiamo anche la più piccola e modesta realtà italiana, ma non così modesta, perché in realtà bisognerebbe sottolineare che anche l'orto di Michelle Obama ha una radice un pochino italiana, perché certo, partita da Alice Waters, che è la vice direttrice di Slow Food International. Certo. Allora, diciamo, è un circolo virtuoso, perché Carlo Petrini, vabbè, è inutile dire anche una sola parola su di lui che è così famoso, però a un certo punto è arrivato all'orto dal problema del cibo, dalla perdita del gusto, della conoscenza, della provenienza del cibo, tutto, ed è stato molto impressionato dall'esperienza di Alice Waters a Berkeley, che aveva creato lo Edible Schoolyard, cioè il cortile scolastico commestibile. E Alice Waters a sua volta è riuscita ad arrivare fino a Michelle Obama e spiegarle come fare perché Sasha e Malia non diventassero delle bambine obese. Quindi insieme all'operazione Fiat Chrysler c'è anche l'operazione Slow Food Casa Bianca, insomma. Sì, c'è un piccolo zampino italiano, fa piacere dirlo, no? Come a Detroit c'è la Fiat. Esatto. Insomma, comunque no, lasciamo perdere lo sciocco patriottismo, raccontiamo la situazione italiana. Gli orti in Italia scolastici sono sempre stati, poi si è perso questo nel periodo del dopoguerra, no? Col boom economico, però una trentina di anni fa alcuni maestri di scuola, alcuni insegnanti hanno voluto recuperare questa dimensione diciamo dell'apprendimento, molto ispirandosi a Schumpeter, no? Piccolo e bello, l'idea, certo, di lavorare con le mani. Quindi sono partiti diciamo 30 anni fa non dal cibo come ha fatto Petrini, ma proprio da un'idea pedagogica e da della manualità, insomma, della del rapporto con la terra, della lentezza, di imparare la pazienza, anche di tutto il bene, come hanno anche notato gli inglesi, no? Del bene che fa l'orto a bambini magari che hanno difficoltà di apprendimento, che invece nell'orto trovano quella pace interiore, quella tranquillità che poi permette, no, di migliorare l'apprendimento. Ecco, ma dove sono state avviate in particolare queste iniziative? Tanto per concretizzare. È cominciato a Cesena con Gianfranco Zavalloni, dirigente scolastico, che ha anche scritto un libro. Cesena in Romagna, insomma, vicino a Forlì. In Romagna sono partite tante campagne agricole italiane. Certo. Però beh, lì è più facile, c'è più spazio. Com'è? Lì è più facile, c'è più spazio. Nel centro di Milano sarebbe ben più difficile. È più facile, e poi c'è più sensibilità, c'è una fiorente agricoltura ancora, insomma, sono tanti fattori. Ma c'è anche il Trentino, infatti dal Trentino, che è una grande tradizione di orti altoatesini e trentini, arriva un libro molto bello che è in classifica adesso, che è L'insalatera nell'orto di Nadia Nicoletti. E ecco, bene, citiamo anche questo. Noi ringraziamo Pia Pera e a presto allora. A presto. presto, grazie. Dal giardinaggio all'alpinismo ci spostiamo in Austria, dove nel Museo ebraico di Hohenems c'è una curiosa mostra dedicata ad Alpi ed ebraismo, un'associazione insolita per chi si immagina gli ebrei a loro agio solo tra i libri e le sofisticatezze intellettuali. Invece il rapporto che lega le montagne al popolo eletto affonda le sue radici nella Bibbia, piena di metafore alpinistiche, a cominciare dal monte Ararat, dove Noè finisce con l'arca, e dal Sinai, dove Mosè riceve i 10 comandamenti. In tempi più recenti, i patrizi ebrei contribuirono alla nascita del turismo alpino, cercando ristoro tra i monti dalle fatiche di città o aprendo hotel e luoghi di cura. Tra gli sportivi ebrei c'era anche Theodor Herzl, il fondatore del sionismo. Venne visto salire in montagna con un prototipo di mountain bike. E in mezzo agli orti ci sono gli insetti e anche i ragni, e proprio ai ragni è dedicata una curiosa notizia che troviamo sul Daily Mail britannico. Alcuni studiosi del Max Planck Institute tedesco hanno trovato il modo di rafforzare i fili delle tele dei ragni utilizzando per esempio zinco, titanio o alluminio. Già di per sé i fili tessuti dai ragni sono molto resistenti, ma in questo modo potranno essere anche utilizzati e resi quasi infrangibili e indeformabili per esempio in campo chirurgico. Insomma, dall'uomo ragno alle super ragnatele. Certo, in omaggio alle pari opportunità bisognerebbe fornire alle mosche ali di titanio e motori biturbo per non farsi catturare dai super ragni. La finestra sul cortile. La tolleranza, valeur en hausse, la tolleranza in ripresa, in crescita, è il titolo molto ottimista del settimanale francese L'Express su una ricerca sociologica che è stata appena pubblicata dall'editore Armand Collin, La France à travers ses valeurs, che è appena uscita nelle librerie francesi e curata dal politologo Pierre Bréchon e dallo specialista di studi d'opinione Jean-François Chernia. E da questa indagine emerge che, insomma, nel paese di Voltaire, nella patria dei lumi, la xenofobia e il razzismo sarebbero in ribasso. Un dato che sembra incredibile in momenti soprattutto di recessione economica, quando si fa più forte anche la tensione proprio nel mercato del lavoro tra immigrati e, diciamo, nativi nei vari paesi. Però da qui, insomma, da questa indagine risulterebbe che rispetto alla precedente indagine che era stata fatta nel 1999, la capacità dei francesi, la capacità di accoglienza dei francesi nei confronti dei diversi di tutti i tipi, quindi non soltanto gli immigrati, ma per esempio i tossicomani oppure gli estremisti politici oppure i pregiudicati o quelli che hanno avuto dei guai con la giustizia, oppure le persone semplicemente emotivamente instabili, sarebbe aumentata questa capacità di accoglienza e questa tolleranza nei confronti dei diversi anche quando li si ha come vicini di casa. Ma per esempio se vogliamo parlare proprio di rapporti tra le etnie, la coabitazione con i musulmani è giudicata negativa o sgradevole soltanto dall'8% dei rispondenti a questa inchiesta, che sono state 3.000 persone intervistate in tutto il paese, e soltanto il 7% giudica sgradevole avere come vicino di casa un omosessuale. Il 5% chi così si lamenta di incontrare sul pianerottolo un lavoratore immigrato, e addirittura il 3% un ebreo. La cosa che invece preoccupa un po' di più è che è soprattutto nelle regioni del nord della Francia che si annidano i sentimenti xenofobi. Ecco, ma intanto proprio per discutere di questi dati e di questo clima che emerge da questo sondaggio, abbiamo in linea da Parigi un ospite importante, il professor Carlo Ossola, a cui diamo il benvenuto. Sono molto grato di questa occasione di riflessione comune. Carlo Ossola, italianista, insegna al Collège de France di Parigi. Allora, Ossola, qua cosa torna la Francia di Voltaire? Ma a giudicare dalle cronache, noi abbiamo visto così aggressioni a ragazzini ebrei, svastiche sulle tombe dei cimiteri ebraici, insomma, episodi di intolleranza di ogni tipo. Insomma, parrebbe abbastanza irrealistica questa radiografia che emerge da questo sondaggio. Sì, in effetti ha ragione, sorprendente. Fino a un certo punto direi che i dati, come dire, materiali, di fatto sembrerebbero, diciamo così, dar ragione all'intervistatore, all'inchiesta, quando dice che di fronte all'assenza di lavoro, la domanda, i datori di lavoro dovrebbero dare la certo ai francesi, e in una fase recessiva come questa dargli la precedenza, insomma, sì. Ecco, sì, la percentuale di coloro che dicono sì, dovrebbero andare per prima i francesi diminuisca è indubbiamente un dato positivo, cioè che solo il 41%, no? Ecco. Mentre nel 91 era il 61%, e il 91 non era un momento di crisi, quindi. Ecco, difatti, quindi è certamente un dato rilevante in senso positivo. Sugli altri bisogna, secondo me, avere più prudenza, non soltanto per il campione relativamente ristretto, 3.000 persone intervistate, ma soprattutto su un dato che è specifico della Francia, cioè la Francia ha conosciuto un momento di grande smarrimento quando, di fronte all'inopinata sconfitta di Jospin, si trovarono al ballottaggio per la presidenza della Repubblica Chirac e Le Pen, cioè certo. Il fascismo di ritorno era addirittura al 18, quasi 19% in ballottaggio per la presidenza della Repubblica. Questo fu vissuto come un grande trauma da una Francia che credeva di aver dimenticato o di aver rimosso o di aver sanato questa piaga, ed è indubbiamente iniziato un percorso di ripensamento che sembra dare qui gli effetti positivi, e questo è, diciamo così, certamente vero anche dal punto di vista, diciamo così, politico, perché oggi, guardando capillarmente le amministrazioni regionali, Le Pen ha perso tutto in pratica, certo. E rimane una sola regione in mano al centrodestra. Ecco, ma possiamo dire che in questo è anche un'opera, e bisogna dire grazie anche in qualche maniera a Sarko, che ha isolato l'estrema destra, insomma, no? Cioè l'estrema destra xenofoba non ha più cittadinanza in questa maggioranza. Sì, non solo, ma ha occupato così saldamente il centro da potersi permettere di fare un po' di shopping anche a sinistra, come ha fatto per esempio con Kouchner e così via. D'altro lato condivido la sua, diciamo così, esitazione in confronto alla realtà quotidiana dei fatti, con aggressioni, violenze, eccetera, e questo è il tratto che, diciamo così, è più vicino anche ai cugini di qua dalle Alpi, cioè noi, vale a dire che la diminuzione degli elementi identitari forti, da un lato certamente abbassa l'intolleranza, ma dall'altro aumenta l'insicurezza. Questo è un elemento che non viene mai preso in considerazione, e quindi sembra che via via che diminuisce l'intolleranza debba diminuire anche la violenza. Invece il paradosso è proprio questo, che via a parole, via, esatto, ci si dichiara tolleranti, poi però no? Certo, perché diminuendo gli elementi di identità, chi non ha, diciamo così, strumenti per governarsi altrimenti reagisce con la via più corta, che non è più quella dell'analisi, appunto perché gli mancano strumenti identitari, ma con la violenza. Quindi questo spiega tanto le violenze in Francia, in particolare quelle anti-ebraiche e xenofobe, quanto quelle che ci sono da noi, purtroppo. Ecco, professor Ossola, grazie di essere stato con noi, alla prossima. Benissimo, grazie. E adesso ci spostiamo in Giappone. Sulla Asahi Shimbun c'è un articolo di Ko Iwaki che parla di un personaggio curioso, tale Tsuyoshi Uesugi, un grande viaggiatore delle ferrovie giapponesi, che nel corso degli anni ha collezionato degli oggetti singolari, e cioè le scatole, i contenitori di cibo che usano i giapponesi viaggiando appunto sugli Shinkansen, sui treni super veloci, per fare colazione. Lui ne ha addirittura collezionati ben 6.000 esemplari di tutte le epoche. Si parte insomma dagli inizi del Novecento, dove le scritte su queste scatole erano in inglese, c'era scritto luncheon, fino a durante la guerra, quando c'erano scritte patriottiche che inneggiavano alla mobilitazione nazionale, e poi al dopoguerra, in cui si parlava invece di ricostruzione di per esempio castelli distrutti dai bombardamenti. Queste attraverso queste scatole e questa collezione praticamente emerge la storia del paese. Ci domandiamo che storia ci racconteranno tra un secolo le scatole del McDonald's o del kebab. E andiamo in Russia. Sul Moscow Times si parla di una mostra in corso a Mosca, una mostra fotografica che in particolare di una ragazza, Vera Uvarova, 19enne, che ha subito un grave incidente stradale ed è stata immobilizzata in un letto d'ospedale per mesi, e durante questa sua degenza e queste sue sofferenze ha usato l'iPhone per documentare la sua esperienza, e adesso mette in mostra queste foto, che spesso sono anche un po' impressionanti perché rappresentano un corpo martoriato di una donna che si è salvata per miracolo da un terribile incidente. Ecco, viviamo nell'era dell'immagine, delle veline. Forse la mostra di Vera Uvarova ci offre un esempio di un modo diverso e più civile di usare il proprio corpo per mandare un messaggio. E per oggi è tutto. Ringrazio Daniele Casagrande, Vittoria Mussini in redazione, Peter Bescapè in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora.